Perché non sei sull'elenco dell'OMS? Quale elenco? Non lo so, pare ci sia un elenco su cui non figuri. Non ci porti mai da nessuna parte. Fanno l'albero di Natale per i bambini all'OMS e noi non ci siamo mai andati. C'è qualcosa, eh? Perché non ci sei? E tutti i soldi che spendi, la macchina che costa un occhio. È per voi? Io me ne frego di tutto questo, non c'è più un soldo sul conto. Chi te l'ha detto? Sei stato licenziato, dillo. Perché sarei stato licenziato? Sei stato licenziato o no? Non lo so. Non mi rispondi. Non posso continuare così. Ormai mi fai paura, lo capisci? Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Un banale incidente, un'ingiustizia possono provocare la follia. Chiedo scusa a Corinne. Chiedo scusa a tutti gli amici. Storie di piccole bugie che si trasformano in enormi tragedie, in una puntata tutta dedicata al vizio dell'ira. Questo programma si chiama Linee d'ombra perché racconta una cosa ben precisa, racconta sì le storie dei vecchi e dei nuovi vizi capitali, ma racconta tutte quelle storie che ci appartengono, anche minute, anche quotidiane, che stanno proprio al confine tra quello che siamo noi, alla luce del sole, e quello che siamo magari noi nascostamente, in un angolo piccolo, in fondo allo stomaco, in fondo alla pancia, in fondo alla testa. Nella puntata di oggi, che è una puntata dedicata all'ira, ecco, le storie che vi raccontiamo non sono storie minute. Sono certo storie che hanno a che fare con quel confine lì, hanno a che fare con una linea d'ombra sottilissima, ma che sono andate decisamente al di là di quella linea, che hanno affondato le loro vite, hanno affondato le loro giornate in un abisso cupissimo. Quindi è davvero una linea d'ombra scurissima quella di oggi, tutta la puntata di oggi, tutto quello che vi raccontiamo in questa puntata. C'è la storia di una ragazza che per una piccola menzogna combina un disastro, e c'è la storia di un uomo che anch'esso per una piccola menzogna fa qualcosa che nessuno si aspetterebbe, ed è qualcosa di profondamente drammatico, anzi direi letteralmente tragico. Sono due storie che si somigliano in un punto molto preciso, nel finale, ma si somigliano soprattutto all'inizio. Sapete quando diciamo una piccola bugia? Capita, no? Capita quasi tutti i giorni di farlo, probabilmente. Ci sono le bugie bianche, quelle a fin di bene, ma che restano delle bugie, e poi ci sono delle bugie piccole, tipo hai fatto quella commissione? Ah, sì, l'ho fatta, la faccio domani, oppure sì, l'ho fatta, ma sono andato, ma non c'era il medico, non c'era il farmacista, o non c'era l'impiegato, la rifarò domani. Ecco, delle piccole menzogne come queste non possono condurre a qualcosa di peggio, e invece sono piccole menzogne che possono cadere ed essere dei piccoli granuli di neve e poi lentamente trasformarsi in una valanga che ti travolge completamente. E uno di questi esempi spesso ha a che fare con lo studio, ha a che fare con l'università, ha a che fare con il laurearsi. Ci sono persone, un po' tutti noi ce l'abbiamo, storie magari non di amici comuni, ma di persone che ci hanno raccontato di quel tizio che diceva a casa che si era laureato e poi invece non era vero niente. Ecco, queste due storie raccontano che cosa accade dopo quel non era vero niente. La prima storia che vi raccontiamo in particolar modo è una storia che è stata raccontata magistralmente da quell'autore francese che si chiama Emmanuel Carrer, in un volume che è uscito credo prima per Einaudi e adesso per Adelphi, che si chiama L'avversario, ed è la storia di un uomo che si chiama perché è vivo, è sopravvissuto a tutto quello che ha fatto. Si chiama Jean-Claude Roman e questa storia risale al 9 di gennaio del 1993. È una storia incredibile, è veramente una storia terribile, la storia di un uomo che inizia a mentire quando è molto giovane, che inizia a mentire quando appunto va all'università e dice di essersi laureato in medicina, e poi mente per giorni, per mesi, per anni. Riesce in qualche modo, facendosi prestare del denaro dai genitori della moglie, dagli amici, a continuare ad uscire la mattina, a dire che va a lavorare all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. Invece sta fuori, sta nei boschi, sta nei parcheggi dei supermercati, e poi torna a casa serenamente e cresce dei figli e ha un cane, ha addirittura un amante. e tutta questa storia finirà malissimo. Quello che stiamo per raccontarvi è l'inizio di questa storia ed è l'inizio terribile di una storia che risale appunto al 1993 e che è vista con gli occhi di un amico. Immaginate di essere una persona, la persona che siete, immaginate di avere un amico che conoscete benissimo da anni, con cui condividete tutto, e un giorno arriva qualcuno che vi dice che quell'amico non solo non è la persona che conoscete, ma è una persona orribile. Allacciatevi le cinture, questa è una puntata dedicata all'ira che racconta due storie cupissime. Benvenuti a Linea d'Ombra. Il lunedì, poco dopo le 4 del mattino, Luke l'ammiral è stato svegliato da una telefonata di Cottin, il farmacista del paese. La casa del suo amico Roman aveva preso fuoco. Gli amici avrebbero fatto bene ad andare a recuperare i pochi mobili che potevano essere ancora salvati. Al suo arrivo i pompieri stavano portando via i corpi. Luke ricorderà per tutta la vita i sacchi di plastica grigia, sigillati, nei quali erano stati messi i bambini. Uno spettacolo orribile. Su Florence avevano gettato solo un cappotto. Il suo volto era intatto. Accarezzandole i capelli in uno sconsolato gesto di addio, le dita di Luke hanno avvertito qualcosa di strano. Ha tastato meglio, girando con cautela la testa della giovane donna, e ha chiamato un pompiere per mostrargli, appena sopra la nuca, una piaga aperta. Doveva essere caduta addosso una trave, ha detto il pompiere. Gran parte della soffitta era crollata. Poi Luke è salito sul camion rosso dove avevano steso Jean-Claude, l'unico della famiglia ad essere ancora vivo. Aveva un battito del polso debolissimo. Era in pigiama, privo di sensi, ustionato ma già freddo. È arrivata l'ambulanza e l'ha trasportato all'ospedale di Ginevra. Era buio, faceva freddo e tutti erano bagnati fradici a causa del getto degli idranti. Just as you take my hand, just as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, you're about to disappear. No one wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission before the night out. Before the animal noise is close to get camera. I due amici avevano studiato medicina a Lione e da allora non si erano più lasciati. Si erano sposati più o meno nello stesso periodo e i loro figli erano cresciuti insieme. Ognuno di loro conosceva tutto della vita dell'altro, la facciata, ma anche i segreti. Segreti di uomini onesti, di persone per bene e quindi ancora più vulnerabili alle tentazioni. Quando Jean-Claude gli aveva confidato che aveva una relazione, un amante e che voleva mollare tutto, Luke era riuscito a farlo ragionare. «Mi restituirai il favore quando sarò io ad essere in vena di cazzate», gli disse. Un'amicizia come questa fa parte delle cose preziose della vita, preziosa quasi quanto un matrimonio riuscito. E Luke aveva sempre dato per scontato che un giorno, a 60-70 anni, avrebbero guardato insieme la strada percorsa, i punti in cui avevano inciampato, quelli in cui avevano rischiato di perdersi, e poi il modo in cui alla fine se l'erano cavata. Seguiva i figli con molta pazienza, aveva un comportamento sempre calmo, gestiva tutto. All'epoca prendevo esempio dai suoi modi con i figli, per seguirli, per cercare eventualmente di correggere i miei difetti. Le loro vite erano simili, anche se sul piano professionale i due uomini non avevano avuto lo stesso successo. Jean-Claude era un luminare nel campo della ricerca, frequentava ministri, partecipava a convegni internazionali, mentre lui, Luke, era medico di base in un paesino. Ma non provava la minima invidia. Se si erano un po' allontanati negli ultimi mesi, era stato solo per un'assurda divergenza riguardo alla scuola che frequentavano i loro figli. Luke ha chiamato il pronto soccorso a Ginevra. Il ferito era nella camera iperbarica, la prognosi era stata riservata. Ha pregato con Cecile i bambini perché non riprendesse conoscenza. Quella mattina, quando ha aperto lo studio, ha trovato ad aspettarlo due agenti. Le loro domande gli sono subito parse strane. Volevano sapere se i Roman avessero nemici dichiarati e attività sospette. Vedendolo sbalordito, i poliziotti gli hanno detto la verità. Da un primo esame dei cadaveri risultava che fossero morti prima dell'incendio. E non era tutto. In un paese sulle pendici del Giuria, lo zio di Jean-Claude era stato incaricato di annunciare la tragedia ai genitori, persone anziane e fragili. Era andato a casa loro insieme al medico di famiglia, ma la casa era chiusa, il cane non abbaiava. Preoccupato, l'uomo aveva forzato la porta, trovando il fratello, la cognata e il cane in un lago di sangue, anche loro uccisi a colpi di arma da fuoco. Assassinati. I Roman erano stati assassinati. Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. I'm driving my car down to Geneva. Sitting in my basement patio, it was hot. Up above, the girls walk past their roses all in bloom. Hey, have you ever heard about the Higgs Boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Crossroad, and the night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. La polizia non lo sapeva ancora, ma due delitti ai danni della stessa famiglia a 80 km di distanza facevano pensare piuttosto a una vendetta o a un regolamento di conti. Gli agenti sono tornati alla domanda iniziale e Luke, sconcertato, ha scosso la testa. Nemici, diceva, i Roman erano ben voluti da tutti. Chi li aveva uccisi era sicuramente uno che non li conosceva. Ai poliziotti non era chiaro quale mestiere esercitasse esattamente Jean-Claude Roman. Medico, dicevano i vicini, ma non aveva uno studio. Luke ha spiegato loro che era un ricercatore all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. Uno degli agenti quindi ha subito telefonato chiedendo di parlare con un collaboratore del dottor Roman, la sua segretaria o un suo assistente. La centralinista non conosceva nessun dottor Roman. Visto che l'altro insisteva, gli ha passato il direttore del personale che, consultati gli schedari, ha confermato: all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra non c'era nessun dottor Roman. On était très surpris de voir quelqu'un qui ayant tué comme ça. Tutti noi psichiatri siamo stati molto sorpresi di trovare qualcuno che, dopo aver appena ucciso moglie, figlia, figlio, padre e madre, era comunque molto disteso, affabile e comunicativo. Diciamo che ci ha fatto un'impressione molto particolare perché ha raccontato tranquillamente tutta la sua vita come se non ci fossero state tutte quelle morti. Allora, Luke ha capito e ha provato un immenso sollievo. tutto quello che era accaduto dalle 4 del mattino in poi, la telefonata del farmacista, l'incendio, le ferite a Florence, Jean-Claude al centro grandi ustionati e per finire quella storia dei delitti, tutto gli era parso perfettamente verosimile, tutto si concatenava dando un'impressione di realtà che non lasciava margine al dubbio. Ma adesso, grazie a Dio, il copione cominciava a fare acqua e si rivelava per quello che era. Era un incubo. Presto si sarebbe svegliato nel suo letto. Chissà se al risveglio si sarebbe ricordato tutti i particolari, chissà se avrebbe avuto il coraggio di raccontarlo al suo amico Jean-Claude. Sai una cosa, Jean-Claude, ho segnato che la tua casa bruciava, che tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori erano morti assassinati, che tu eri in coma e che all'OMS nessuno ti conosceva. Si può dire una cosa simile a un amico, anche se è il tuo migliore amico? A Luke è balenato un pensiero che in seguito avrebbe continuato a ossessionarlo. In quel sogno, Jean-Claude era il suo doppio e affioravano paure che riguardavano lui stesso. Paura di perdere i suoi cari, ma anche di perdersi, di scoprire che dietro la facciata sociale lui non era niente. Con il trascorrere delle ore, la realtà è diventata sempre più simile a un incubo. Convocato alla polizia nel pomeriggio, nel giro di 5 minuti, Luke ha scoperto che nella macchina del suo amico Jean-Claude avevano trovato un biglietto in cui lui si accusava dei delitti e che tutto ciò che credevano di sapere sulla sua carriera, sul suo lavoro, era pura invenzione. Erano bastate 4 telefonate e qualche semplice verifica per smascherarlo. All'Organizzazione Mondiale della Sanità nessuno lo conosceva, all'Ordine dei Medici non era nemmeno iscritto. Il suo nome non figurava nelle liste degli ospedali parigini in cui sosteneva di aver lavorato, di aver fatto il tirocinio, né in quelle della Facoltà di Medicina di Lione, benché lo stesso Luke e molti altri giurassero di essere stati suoi compagni di università. Aveva cominciato gli studi, è vero, ma aveva smesso di dare esami alla fine del secondo anno e da quel momento in poi era tutto falso. All'inizio Luke ha rifiutato categoricamente di crederci. Se uno viene a dirti che il tuo migliore amico, il padrino di tua figlia, l'uomo più onesto che conosci, ha ucciso moglie, figli e genitori, e per di più che da anni mente su tutto, non è naturale che tu continui ad avere fiducia in lui? Anche se ti mettono di fronte a prove schiaccianti, che amico saresti se ti lasciassi convincere così facilmente della sua colpevolezza? Jean-Claude non poteva essere un assassino. Doveva mancare per forza una tessera del puzzle. Prima o poi sarebbe saltata fuori e allora tutto avrebbe acquistato un altro significato. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence. what they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. Continuiamo a raccontare subito dopo le borse in diretta qui a Linee d'Ombra. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri, come notebook HP veloce con SSD a soli 549 euro. MediaWorld, fatto apposta per me. Fino al 19 gennaio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroen C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Anche domenica. Info su citroen.it. Citroen. Allora, facciamo che io ero un architetto insieme a Sara, che è brava a disegnare. E viaggiavamo dappertutto e avevamo tante spese, le fatture da pagare, le trasferte. Ma forse questo mese possiamo posticipare i pagamenti. Così ci concentriamo sui nuovi clienti e facciamo crescere il nostro business. Fai diventare grande la tua piccola impresa. Scegli carta Oro Business American Express e scopri i vantaggi per il tuo business. Richiedila su americanexpress.it. Per te fino a 250 euro di sconto sulle spese aziendali. Messaggio promozionale info su americanexpress.it/business. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. La prossima storia è una storia che ovviamente continua a raccontare il tema del vizio di oggi, che è l'ira. La protagonista è una giovane donna, si chiama Jennifer Pan. È una donna canadese che vive nella piccola città di Markham, a nord di Toronto. Era una studentessa modello, di quelle che prendono sempre il massimo dei voti. Aveva ottenuto una borsa di studio per l'università e l'ammissione anticipata ai corsi. Esaudendo il desiderio di suo padre, si era laureata nel prestigioso corso di farmacologia dell'Università di Toronto e aveva iniziato a lavorare nei laboratori di un ospedale pediatrico. In una puntata dedicata al vizio dell'ira, la seconda storia, la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Gli ottimi risultati accademici e lavorativi di Pan erano l'orgoglio dei suoi genitori, Beach Ha e Wan Han Pan, arrivati a Toronto dal Vietnam come rifugiati. Avevano lavorato tutta la vita come operai in una fabbrica di parti di automobili per permettere a loro due figli di avere il futuro che avrebbero voluto per loro stessi. Ma nel caso di Pan, in verità, le cose stavano diversamente. Non si era diplomata a pieni voti a scuola e non si era laureata in farmacologia, come aveva raccontato ai suoi genitori. Era tutta una bugia. La storia di Pan è stata raccontata dalla rivista Toronto Life. La giornalista Karen Oh, compagna di classe di liceo di Pan, ha ricostruito la complicata trama di bugie e inganni congegnata negli anni da Pan alla Mary Ward Catholic Secondary School per ingannare i suoi genitori ed evitare che scoprissero la verità sui suoi risultati scolastici. A scuola, racconta Oh, Jennifer Pan era una ragazza molto socievole, molto popolare, con tutti i gruppi di studenti. Fuori da scuola nuotava, praticava arti marziali. Tuttavia, gran parte di questa sicurezza e socievolezza erano una facciata per nascondere il fatto che si sentiva insicura, inadeguata e si vergognava dei suoi risultati. Pan era arrivata anche al punto di infliggersi dei tagli sulle braccia. I genitori di Pan erano convinti che loro figlia fosse una studentessa modello, racconta la giornalista. In verità, i suoi risultati erano nella media dei suoi compagni, un fatto inaccettabile per una famiglia rigida come la sua. Jennifer continuò a contraffare le sue pagelle durante tutti gli anni del liceo. Ottenne davvero un'ammissione anticipata all'università, ma non superò gli esami finali al liceo e l'offerta fu ritirata. Terrorizzata che i suoi genitori potessero scoprire la verità, continuò a mentire dicendo che avrebbe cominciato l'università in autunno. Disse che il suo piano era fare 2 anni di scienze e passare poi al corso di farmacologia. Suo padre le regalò un computer per festeggiare. A settembre Pan cominciò a fingere di andare all'università e convinse il suo padre di avere vinto una borsa di studio. Ogni giorno faceva la sua borsa e si metteva in viaggio verso il centro. I suoi genitori pensavano che andasse a lezione, in verità lei andava in qualche biblioteca pubblica. Dopo 2 anni, Pan fece finta di aver ottenuto il trasferimento al corso di farmacologia e poi di essersi laureata. Raccontò ai suoi genitori che i biglietti per la cerimonia erano finiti e che loro non sarebbero potuti andare. A un certo punto i suoi genitori si insospettirono e cominciarono a seguirla, scoprendo la verità. I'm wasted losing time. I'm a foolish, fragile spine. I want all that is not mine. I want him. Pan e suo fratello erano stati cresciuti con il mito dell'istruzione e in un'atmosfera molto severa. Niente feste, niente fidanzati. In casa c'era una teca con tutti i trofei vinti da Pan. Quando i genitori di Pan scoprirono la verità, divennero ancora più severi con lei. Niente cellulare, niente computer e niente appuntamento con il suo ragazzo, Daniel Wong, nonostante Pan fosse ormai adulta. Proprio con l'aiuto di Wong, Pan cominciò a organizzare l'omicidio dei suoi genitori per liberarsi da quelli che chiamava arresti domiciliari. Pan recitò la parte della testimone inerme mentre 3 uomini pagati da lei entrarono in casa sua fingendo una rapina e spararono, uccidendo sua madre e ferendo suo padre. Pan chiamò anche la polizia, fingendosi disperata. Per rendere più credibile la sua storia, ovviamente, pianse tutto il tempo. Inizialmente i giornali presero per buona la storia della rapina andata male. Gli investigatori della polizia, però, scoprirono il piano di Pan in poco più di 2 settimane. Nel gennaio del 2015, un tribunale dell'Ontario ha dichiarato Pan e i suoi 3 complici, tra cui il suo fidanzato, colpevoli di omicidio di primo grado e tentato omicidio. Sono stati condannati all'ergastolo senza possibilità di uscire anticipatamente in libertà condizionata. Nonostante il processo di Pan sia stato molto raccontato dai giornali, si è parlato solo di una piccola parte della più complessa storia ricostruita da Oh, la giornalista. L'articolo del Toronto Life, in parte perché scritto da una ex compagna di Pan, racconta le difficoltà che aveva dovuto sopportare e che le avevano portata a decidere di uccidere i suoi genitori. Da quando è stato pubblicato, mercoledì 22 luglio del 2015, l'articolo è stato molto condiviso su Facebook, circolando moltissimo, soprattutto tra gli immigrati asiatici che vivono in Canada e Stati Uniti. E tutti hanno raccontato sui social network delle loro infanzie vissute tra le altissime aspettative dei genitori e la snervante paura di non riuscire ad accontentarli. Nella discussione sui social, un uomo ha scritto: «Questa storia mi ha colpito perché la mia vita era molto simile a quella di Pan. Vengo da una famiglia asiatica con la stessa mentalità di quella di Pan. Ero uno studente eccezionale al liceo. Ho avuto una borsa di studio e ho potuto scegliere io quale università frequentare. Da lì sono iniziati i problemi». Anche lui, dopo aver fallito all'università, ha cominciato a vivere una vita di bugie, fino a quando non è stato scoperto. «I miei genitori, racconta, mi hanno dato tutto e hanno sacrificato tanto per il mio successo e questo era il risultato. Però io ho accettato le condizioni che mi hanno posto i miei per rimettere in sesto la mia vita. Non ho nessuna pietà per Jennifer Pan, perché credo di essere stato nella sua situazione». Dopo che i suoi genitori hanno scoperto le verità, hanno reagito proprio come i miei genitori, ma io ho usato l'opportunità per rimettere insieme la mia vita, lei per distruggerla del tutto. Questa storia l'abbiamo trovata su un articolo del Post che si intitolava proprio «La ragazza che uccise i genitori perché andava male a scuola». Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Che cosa accade nella testa di una persona, di un figlio, nella fattispecie, come abbiamo raccontato nella storia poco fa, per arrivare a uccidere i propri genitori? È un gesto, direi, da un punto di vista criminale, antichissimo anche, che arriva chissà dove ed è nascosto, forse chissà dove, anche dentro di noi. Noi raccontiamo storie, non spieghiamo le cose, quindi, come spesso accade, chiediamo a qualcuno che ne sa di più riguardo al tema, e lo abbiamo fatto anche in questo caso. Siamo felici di averlo con noi. Lui è psichiatra, psicoterapeuta e criminologo, è professore di psicopatologia forense all'Università di Firenze ed è responsabile del laboratorio di scienze psicoforensi e criminologiche dell'ASP di Cosenza, il professor Paolo De Pasquali. Professor De Pasquali, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie mille per essere qui. Lei, tra le altre cose, ha pubblicato per Rubettino, per Franco Angeli, «Figli che uccidono e l'orrore in casa, psicocriminologia del parenticidio». Professore, le faccio subito la domanda più complicata: che cosa accade nella testa di un figlio per fare un gesto come questo? Ovviamente bisogna distinguere da caso a caso, perché è facile poi, come dire, fare dei discorsi troppo generici. Visto che parliamo anche di situazioni drammatiche, è bene quindi premettere che i ragionamenti che facciamo sì, sono più o meno in linea generale. Io così posso dire a grandi linee che esistono sostanzialmente un paio di grosse categorie di soggetti che uccidono i genitori. Da un lato abbiamo dei ragazzi, dei giovani che sono affetti da patologie mentali gravi, quindi delle psicosi gravi, e quindi uccidono i genitori in conseguenza di sintomi di tipo delirante, mania di persecuzione o addirittura allucinazioni, quindi voci che impongono uccidere quella persona che loro non riconoscono come il proprio genitore, perché il delirio trasforma, diciamo, la realtà nel soggetto, e quindi vive i propri genitori come dei persecutori o addirittura come delle entità altre rispetto alla vera identità, che è quella del genitore. Quindi questo è un grosso campo di figli che uccidono i genitori. E poi abbiamo una categoria, diciamo, noi definiamo come parricidi reattivi, cioè sono quelle situazioni in cui vengono uccisi dei genitori, in questo caso soprattutto dei padri, che sono il classico padre padrone, quindi genitori che hanno vessato i figli e la famiglia in generale, fino ad arrivare a un punto tale per cui un membro della famiglia, e spesso ad esempio in questi casi sono le ragazze, quindi le figlie, si armano e uccidono appunto quel tiranno che sta determinando l'annientamento della famiglia. Quindi arriva un momento critico di rottura in cui queste ragazze uccidono il genitore che ha vessato pesantemente tutta la famiglia fino a quel momento. E questi sono, diciamo, questi due primi casi. Casi sono i casi un pochino più comprensibili, perché appunto da un lato c'è una reattività, una violenza familiare, in un altro caso c'è una patologia di mente, quindi in qualche modo vi è una interpretazione psicopatologica. E poi abbiamo invece il grosso campo, che è quello più inquietante anche per l'opinione pubblica, che è quella invece dell'omicidio apparentemente immotivato, no? Certo. Cioè del figlio che fino a quel momento sembrava funzionare in maniera tranquilla, e senza una ragione un giorno sì, che un giorno uccide dei genitori, che anche questi apparentemente erano persone normali, quindi in un contesto di normalità. E questi sono appunto omicidi che sono difficilmente comprensibili, a meno che non si entri poi nello specifico, e quindi lo studio del caso ci porta a rilevare alcune caratteristiche che sono in sostanza quelle di famiglie che hanno un'apparenza di normalità e poi all'interno invece si scopre che esistono delle situazioni non particolarmente drammatiche, ma comunque delle dinamiche all'interno della famiglia che hanno fatto sì che poi si sia sviluppato un sentimento che io definirei di odio da parte di un figlio contro questi genitori, che può in casi estremi ovviamente condurre all'omicidio. Ma professor De Pasquali, scusi, in casi come questi o anche in quelli che abbiamo citato, il genitore non se ne accorge, non se ne rende conto che questa cosa sta montando perché non ascolta, perché ci sono, come dire, sono gesti irrazionali in preda a uno scatto di ira, insomma non c'è una comprensione della situazione? Sì, dunque non c'è una comprensione della situazione, nel senso che sembrano delle situazioni che tutto sommato sono sotto controllo, anche perché per lo più sono commessi da giovani in età adolescenziale o poco di più, e quindi diciamo si intrecciano le problematiche tipiche dell'adolescenza con invece delle situazioni appunto di conflittualità drammatiche all'interno della famiglia che difficilmente vengono percepite non solo dai genitori, ma spesso anche dagli psicologi, che talvolta è capitato siano anche intervenuti a dipanare questa difficoltà. Di fatto vive il ragazzo all'interno della famiglia una situazione che qualcuno ha definito come conflitto catastrofico, cioè una situazione in cui il giovane all'interno della famiglia sente che i propri bisogni, i desideri, le sue aspirazioni siano praticamente rifiutate o non siano comprese dalla coppia dei genitori, e quindi e da un lato anche i genitori ritengono che il figlio non stia comportandosi, non stia raggiungendo gli obiettivi della famiglia, e tutto questo crea appunto nel giovane un sentimento montante di incomprensione e di odio, per cui a un certo punto si ha una situazione in cui il giovane ritiene che solamente l'omicidio possa salvare la propria integrità, la propria immagine, perché vive questa situazione conflittuale come una minaccia per il sé. Quindi un gesto definitivo definitivo che serve a rompere. Poi è vero che talvolta appare come un acting out, cioè sembra un gesto improvviso che nasce dal nulla, però di fatto poi c'è tutta questa situazione, c'è un un humus di questo tipo che fa sì che si arrivi a un gesto che poi preso di per sé effettivamente un gesto che altrimenti sarebbe incomprensibile. Se per caso volete saperne di più, leggetevi Figli che uccidono o L'orrore in casa. Professor De Pasquali, grazie davvero ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, buona giornata.